tutti i mercoledì, dalle 21 alle 22, barbecue, tutto fumo e niente arrosto. Sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM. Barbecue, il programma nuovo. Barbecue, un programma dedicato agli stereotipi italiani. Il programma che mancava. Condotto da Fabrizio e Daniele. Vieni anche tu a barbecue. Manchi solo tu.